Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, sede della sapienza, prega per noi. Allora, bene. Allora, ci ritroviamo dopo si sa quanto tempo a fare questi benedetti. Questo è il Vangelo più bello di tutti, che peccato, insomma, che... L'ultimo incontro, sono a vedere quando, per vedere a che punto siamo rimasti, ho fatto in streaming, perché è appena arrivato il lockdown, quindi è andato in onda un incontro in streaming, questo. Adesso vediamo un pochettino qui su questa, allora, abbiamo un pochino di ripasso per chi non si ricorda. Il Vangelo di San Giovanni è distritto in due grandi libri, ci ricircostanziamo un pochino del libro dei segni, che è appunto questo, e il libro dell'ora. Noi siamo arrivati nel libro dei segni, abbiamo introdotto la predicazione del Battista, abbiamo visto la nozze di Cana, la purificazione del tempio, il colloquio con Nicodemo e anche il colloquio con la samaritana, la guarigione del funzionario, la guarigione della piscina di Bezzeta e il discorso sull'opera del figlio. Ci rimangono da fare ancora questi, tutta quanta questa sezione qui. Quindi oggi riprenderemo la moltiplicazione dei pani, poi sta Gesù cammina sulle acque e poi il grandissimo discorso alla sinagoga di Cafarnao, che è il capolavoro di San Giovanni sull'Eucaristia, è stupendo, è meraviglioso, è qualcosa veramente di straordinario. E poi si prosegue le discussioni, l'adultera, la testimonianza che Gesù rende a se stesso. Il discorso di Gesù, però vi ricordate che Gesù nella prima parte vengono alternati i segni ai grandi discorsi. Il Vangelo di San Giovanni ci stanno parabole, non è come i sinotti, ci sono questi segni che sono miracoli significativi di qualcosa di più grande e poi questi lunghi discorsi di Gesù a tema. Alcuni sono discorsi polemici, altri sono discorsi dottrinali, quindi è un piccolo capolavoro di teologia il Vangelo di San Giovanni, no? Il sesto segno è il cioconato e poi la risurrezione di Lazzaro, che chiude appunto il libro dei segni. Tutto questo l'abbiamo visto e andiamo un pochino avanti, scordiamo un pochino avanti. Sì. Allora, riproduci. Ok. Se non mettiamo di riproduzione, ok. Allora, andiamo un pochino avanti e così ripercorriamo un pochino le slides e arriviamo al punto di oggi. Quindi abbiamo visto la presentazione del libro dei segni con tutte quante le sue caratteristiche particolari. Quindi lo scorriamo mano a mano che poi facciamo un pochino di ripasso. Noi siamo arrivati alla moltiplicazione dei pani. Vedremo oggi cosa riusciamo a fare, insomma, sicuramente, almeno sperando che poi non ci rinchiudono un'altra volta, se no questo benedetto Vangelo di Giovanni rimarrà il Vangelo incompiuto. Quindi nella volta precedente abbiamo fatto i capitoli 1 e 3, quindi abbiamo visto San Giovanni la sua predicazione, i primi discepoli, le nozze di Cana, che è il primo segno, la purificazione del Tempio, quindi quando Gesù scaccia i venditori, il colloquio con Nicodemo, l'ultima testimonianza del Battista e poi abbiamo introdotto il capitolo 4, quindi il bellissimo discorso con la Samaritana, la guarigione del figlio del funzionario, che è il secondo segno, la guarigione dell'infermo alla piscina di Bezzeta, che è il terzo segno, il discorso sull'opera del figlio. Ecco, ci siamo fermati al discorso sull'opera del figlio. Dobbiamo riprendere adesso la moltiplicazione dei pani secondo Giovanni. Ecco, questo è un episodio che presentano tutti e tre i Vangeli sinottici e anche San Giovanni. Quindi se uno prendesse la sinossi, sapete, ci sono pochissimi episodi che accomunano tutti e quattro i Vangeli. La moltiplicazione dei pani è uno di questi. Attenzione, la moltiplicazione dei pani è seguito, è intervallato da Gesù che cammina sulle acque e poi c'è il discorso della sinagoga di Cafarnao. Quindi già si capisce subito, no? Il discorso della sinagoga di Cafarnao è il discorso sul pane della vita, è il grande discorso di Gesù sull'Eucaristia. Qui purtroppo non siamo voluti andare in Terra Santa, non ci potremo sicuramente andare anche l'anno prossimo. La sinagoga di Cafarnao, ci stanno ancora i resti, quindi è stupendo arrivare nei resti di Cafarnao, sta ancora la casa di Pietro, che hanno praticamente, l'hanno scavata tutta quanta, dove sicuramente lì c'è stato proprio Gesù al 100%, che sono posti dove sicuramente lì c'è stato nostro Signore. Però la prossima volta che ci vado, non c'è un bel figlio. E alla sinagoga di Cafarnao ci sta, e quindi leggere il discorso della sinagoga di Cafarnao lì è tanta roba, veramente, insomma, no? Allora, esco un attimo perché dobbiamo un attimo uscire e prendere la Bibbia, perché dobbiamo andare adesso qui a leggere proprio i passi che ci riguardano e che ci interessano. Torniamo al Vangelo di Giovanni, perché lo andiamo a leggere e, come sempre, a meditare e commentare insieme. Stiamo al capitolo quinto. Ok, si vede bene, Andrea? Io non ci vedo proprio. Senza che né da vicino né da lontano, quindi lontano nello storietto tuo, nello storia, perché ne sappiamo, non c'è appunto per nulla. Allora, il capitolo sesto, il grande capitolo sesto, quindi il capitolo sesto ci abbiamo, è tutto in un capitolo, moltiplicazione dei pani, Gesù cammina sulle acque e il discorso sul pane vivo disceso dal cielo. Se riuscissimo a farlo in un incontro solo sarebbe il top, senza chiaramente sminuirlo, perché il senso di questi incontri è che, insomma, il Vangelo ce lo gustiamo con calma, perché se dobbiamo andare di corsa anche in queste circostanze, insomma, diventa complicato, no? Passo alla lettura. Dopo questi fatti Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. Una grande folla lo seguiva vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Ecco, già per esempio dopo era vicino alla Pasqua, alla festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vede che una grande folla veniva dopo e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e li riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Attenzione a tutte le altre cose. Ingrandisco un pochino il testo così vedete meglio. Ok. Meglio? Siamo grandi quanto ce pare. Ok. Leggo tutto, poi. Quindi questa è la moltiplicazione dei pani. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, cominciò a dire: questo è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, attenzione, si ritirò di nuovo sulla montagna tutto solo. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare e, saliti in una barca, si avviarono verso l'altra riva in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Il giorno dopo la folla, rimasta dall'altra parte del mare, notò che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti. Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando Dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarno alla ricerca di Gesù. Trovato di là dal mare, gli dissero: Rabbi, quando sei venuto qua? Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi avete visto, che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo respingerò, perché non sono disceso dal cielo per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, e questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Intanto i giudei mormoravano di Lui perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo, e dicevano: ma costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di Lui conosciamo il padre e la madre, ma come può dunque dire sono disceso dal cielo? Gesù rispose: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: ma come può costui darci la sua carne da mangiare? E Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me, ed io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: ma questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora a Gesù: forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Rispose Gesù: non ho forse scelto io voi i dodici? Eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Questo infatti stava per tradirlo, uno dei 12. A questo bellissimo sesto capitolo del Vangelo di San Giovanni, adesso io per mia comodità passo alla versione multipla, quindi perché alcuni passaggi non fa niente, insomma, che non che ci sia il testo greco, il testo della Vulgata, della traduzione c'è la più recente del 2008 e del 74. Allora, anzitutto vedete bene lo stesso, no? Sì, sì. Ok, quindi a voi interessa questo, quello che abbiamo letto, questo è una traduzione, questo è il testo greco che mi interesserà a me per farvi notare qualche piccolo particolare, insomma, non fa niente che non conoscete il greco, quindi fidatevi della lettura, insomma, no? Metà tauta perché no Jesus per antestealas tescarelia garelais testiberiados, no? Ok, allora, il contesto anzitutto, questo è una unità, capite subito che la moltiplicazione dei pani, per alcuni termini che Gesù usa, è un chiaro miracolo che ha riferimenti all'Eucaristia. Vedremo proprio nei passaggi, proprio con il testo, quello che andava a messa tutti i giorni, non avete nessuna difficoltà. Proprio il linguaggio che Gesù usa è il linguaggio eucaristico, dopo aver reso grazie, quindi è chiaro. La simbologia dei 5 pani e dei 2 pesci, vedremo, è una simbologia assolutamente cristologica. Le 12 sporte che avanzano, vediamo che significa questa cosa qua nella mentalità giovannea. Tenete presente che San Giovanni scrive il Vangelo molto molto molto avanti, è morto intorno al 100 avanti Cristo. A quel tempo si era già consumata una prima abbastanza netta divisione tra la cosiddetta sinagoga e la chiesa primitiva. Cioè, sapete che all'inizio c'era la fase giudaico-cristiana, no? Quindi fondamentalmente i cristiani erano tutti giudei convertiti, come erano anche gli apostoli, no? Poi San Paolo comincia a predicare e cominciano ad arrivare anche i pagani, e invece gli ebrei, come diciamo, dissidenti, che non credevano, come si sono barricati, hanno cominciato anche a fare un pochettino di braccio di ferro, insomma, con la Chiesa, no? Ai tempi di San Giovanni questa divisione era già abbastanza netta, nel senso che cominciavano anche con un linguaggio un pochino non siamo più abituati oggi, ad appiccicarsi e a lanciarsi gli epiteti gli uni contro gli altri, no? Perché i giudei dicevano ai cristiani che erano eretici, andavano a presso a Nazareno, e viceversa si dicevano questi hanno messo in croce il figlio di Dio, tutte queste cose qui, no? Quindi dobbiamo capire questo contesto, perché dietro questo contesto ci sono le 12 ceste che sono avanzate. Attenzione, poi c'è il miracolo di Gesù che cammina sul mare, mare in tempesta, che sta proprio il segno incanalato tra il segno della moltiplicazione dei pani e poi il discorso. Che significa? Dice, guarda che ciò che riguarda l'Eucaristia ha a che fare prima con la moltiplicazione dei pani, ma anche con la tempesta serena, quindi con Gesù che cammina sulle acque. Quindi vuol dire che capire bene la forza dell'Eucaristia significa anche capire bene cosa significa camminare sulle acque. Adesso, questo è conto. E poi il discorso sul pane vivo, un discorso molto ampio. È evidente che lo sfondo del discorso sul pane vivo disceso dal cielo è il miracolo fatto da Yahweh con il popolo di Israele della manna caduta dal cielo. Non Mosè vi dà il pane vivo disceso dal cielo, ma mio padre vi dà il pane vero. Qui Gesù fa un'interpretazione, si chiama tecnicamente, scusate se uso un pochino di parole tecniche, insomma, però questo è un incontro, insomma, non esagero troppo, però un pochino sì. Molte cose che sono successe nell'Antico Testamento si chiamano tecnicamente, erano tipo, figura, di altre che sarebbero successe nel Nuovo. Che significa tipo? Era una sorta di prefigurazione, d'accordo? Allora, Isacco che sale con la legna sulle spalle per il monte del sacrificio e poi Dio ferma Abramo, chi era Isacco? Era figura di Cristo, che sarebbe salito con legno sulla croce, però lì nessuno avrebbe fermato la mano dei carnefici perché doveva essere sacrificato. Chi era la regalità di Davide? È figura della regalità di Cristo nostro Signore. Giuseppe che è stato venduto, conoscete la storia dei fratelli in Egitto, Gesù è stato venduto per 30 denari, era figura di Giuseppe, quindi Gesù è stato venduto in Giuseppe, legato in Isacco, perseguitato nei profeti, ci sono dei passi bellissimi della Chiesa, no? E la manna che cos'era? La manna è piovuta dal cielo, quindi Quindi un alimento corporale, però miracolosamente avuto. L'Eucaristia è un alimento, come dire, materiale, viene dal cielo, ma non alimenta il corpo, ma alimenta l'anima. Però quello che la manna prefigurava, poi l'Eucaristia l'ha inverato. Quindi è il pane vero disceso dal cielo, cioè ciò che il segno prefigurava in rapporto a quello che molto tempo dopo, ma capite che Dio è molto tempo dopo, non ci sta, perché Dio vive nella dimensione dell'eternità, sarebbe poi stato realizzato dal nostro Signore Gesù Cristo. Allora, discorrendo bene, piano piano, qui, ok. Allora, una grande folla lo seguiva, anzitutto, no? Allora, il contesto è molto simile, qui, vedete, la moltiplicazione dei pani del Vangelo secondo Giovanni ha un contesto molto simile, sapete a cosa? Alle beatitudini secondo Matteo. Se si prende il capitolo quinto del Vangelo di Matteo, andiamo dall'altra pagina, si vedrà che quando Gesù sale sul monte c'era un sacco di gente. Gesù sale sul monte e c'era un sacco di gente che gli stava dietro. Guardate, no? Vedendo le folle, folle un'altra volta. Gesù sale sulla montagna e si mette a sedere. Qui che cosa fa? Il discorso della montagna, quindi predica la Magna Carta del Vangelo. Lì che cosa fa? Moltiplica i pani. Quindi se uno prende Matteo 5 e Giovanni 6 e li mette insieme, fa la messa. Quindi Gesù che sale sulla montagna, quindi sta in cattedra come il nuovo Mosè, come Mosè che sale sul monte per cercare i comandamenti, prima parla e poi nutre. Quindi, capite? Non è casuale questo fatto qua, è chiaro, no? Dopo questi fatti, vaso mare di Galilea, una grande folla lo segue, vedete, in ebraico, in greco è oklos, la folla, questo qui, questa parolina qui che vedete in rosso, oklos, oku, e crowd, è multitude, ok? E Gesù sale sulla montagna e si mette a sedere con i discepoli. Attenzione che il verbo sedere è ecateto, acathema, e da cui deriva cattedra. Ieri abbiamo fatto la cattedra di San Giovanni in Laterano, la cattedrale. Chi è che sta seduto sulla cattedra? Il Papa e i Vescovi, quindi quelli che insegnano. Quindi Gesù è salito un'altra volta in cattedra, però stavolta non parla, fa una cosa, non insegna a parole, insegna con i fatti. Tu devi capire quello che ti dice, cioè che ti sta dicendo che il miracolo della moltiplicazione dei pani non serve a riempire la panza tutta quanta quella gente. Certamente c'era anche un problema, come dire, tecnico materiale, perché quelli lo stavano seguendo e c'erano fame. Ma poi che cosa dirà Gesù? Voi mi seguite non perché avete visto dei segni, semeia in greco, ma perché avete mangiato del pane e vi siete sfamati. Tant'è vero che dopo la moltiplicazione dice: ah, mo fa morire. Ecco qua, abbiamo risolto il problema della povertà, questo schiocca le dita, ci fa mangiare tutti quanti. Ecco qua, via via, via Ponzio Pilato, via Erode, facciamo, tu vieni a far re. Vede la nostra capoccia, capito? Perché la nostra capoccia tragica, perché noi anche quando ci avviciniamo al Signore, cioè tante barzellette, no? Sarebbe, se uno c'è una cassa di risonanza, la gente che prega e chiede al Signore: fammi trovare lavoro, guariscimi dal coronavirus, guariscimi dal tumore, guariscimi, per carità, tutte tante cose per carità importanti, fammi sposare, fammi trovare moglie, marito, nonna, trisavolo, zio, fammi vincere il figlio, tutte queste cose qui, che per carità, ma chi è che gli chiede: dammi il pane mio disceso dal cielo, d'accordo? Dammi la vita eterna, d'accordo? Se uno potesse mettere un amplificatore con tutte le preghiere che sanno nostro Signore, probabilmente staremmo tutti quanti messi un po' maluccio, no? Quindi sale sulla montagna. Tra l'altro era vicino alla Pasqua, altro piccolo particolare. Che cos'è la messa? La messa è stata celebrata quando? La prima messa? Durante la cena pasquale. Nella Pasqua ebraica c'è pure l'agnello che fu immolato e venivano messe lo stipite, il sangue sugli stipiti delle porte perché non passasse l'angelo mai. Anche lì, se voi sentite il precorno pasquale la notte di Pasqua, è lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. Quello che immolavano gli ebrei, l'agnellino, era una figura dell'agnello sgozzato che sarebbe stato veramente immolato e che non era un animale, ma era il figlio di Dio fatto uomo. quindi era vicino alla Pasqua, quindi anche il contesto liturgico, no? Quindi la moltiplicazione dei pani c'ha a che fare con la Pasqua, perché è una prefigurazione dell'Eucaristia a sua volta. Allora, quindi Gesù vede di nuovo questa grande folla, tutto così da sinistra, dice, e Filippo, vedete, se vi ricordate, ci siamo quando abbiamo introdotto i discorsi sul Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni c'è un elemento tipico, Gesù, anche gli apostoli stanno terra a terra, cioè Gesù cerca di portarli in alto, d'accordo? E questi rimangono in basso. Se vi ricordate il discorso con Nicodemo, dice, se uno non rinasce dall'alto non può entrare nel regno di Dio, Nicodemo fa così, come faccio io ad entrare nel grembo di mia madre, io che sono vecchio? Ti ho detto che devi rinascere dall'alto, non devi entrare nel grembo di tua madre, capito? Quindi c'è sempre questa ironia giovannea, la chiamano così gli esegeti, che Gesù vuole in alto e quelli, e capite, sono come le galline, no? Gesù vuole farle diventare, sapete che San Giovanni è l'aquila, capito? L'aquila vuole in alto parecchio. E invece gli apostoli sembrano galline, hai visto le galline quando provano a fare, che starnazzano, poi si rotano, non ci riescono a volare. Ecco, c'è proprio questo contrasto tipico di questo quarto Vangelo, no? Vedete? E Gesù l'ha provocato, dice, dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Vedete, attenzione, diceva così per metterlo alla prova, peirazon autonomo. To test in inglese, proprio per facciamogli un po' un test, vediamo un po' se capisce, d'accordo? Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Allora, gli rispose Filippo, ma 200 denari di pane, attenzione che 200 denari, ricordate sempre, un denaro era la paga di un operaio a giornata, ricordate sempre questo qua, comunque tanto si fa 10.000 talenti e 200 denari, no? La parabola del servo spietato. Allora, un denaro, la paga di un operaio vuol dire 50 euro, facciamo così, no? 200 denari, 50 per 2 va 100, quindi 200, 2.000 euro di pane, voi che siete bravi, c'è tanto 2.000 euro di pane, mezzo camioncino, insomma, no? Io non è che faccio tante spese, cose, ho 2.000 euro di pane, insomma, un po'. Dice, se ci fossero 200 euro di manco un pezzo, d'accordo? 2.000 euro di pane, quindi se con 2.000 euro di pane li facciamo fare domani e mercoledì, li facciamo fare digiuno a pane anche, d'accordo? Non è che li facciamo mangiare, insomma, no? Quindi, allora gli disse a loro discepoli Andrea, fratello di Simon Pietro, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa è questo per tanta gente? Allora, ecco, adesso che abbiamo sentito queste parole, dopo la messa in onore di San Leone Magno che ha fatto il concilio di Calcedonia, è tutto più facile. Allora, ma qua ci vorrebbe che mangia, che secondo me era meglio che facevo vabbè, tanto quello troviamo un altro sistema. Allora, la cosa più facile sono i pani. Il pane Gesù l'ha scelto anche per l'Eucaristia. Il numero 5, che cosa simboleggia? Sono le 5 piaghe, piedi e costato. E i 2 pesci. Il pesce chi è? Il pesce, penso che l'abbiate visto nelle catacombe, no? Adesso mo mi invento qualcosa e qua si può scrivere con la pencil, se no potrei fare anche, vabbè, non lo facciamo troppo complicato che là c'è sta la diretta. Allora, vediamo un pochettino se riesco con una nota a farvelo vedere in maniera, diciamo così, estemporanea e istantanea. Volevo proprio farvi vedere che cos'è un acronimo, perché ictus, il pesce simboleggia Cristo, ma perché simboleggia Cristo il pesce? Allora, prima che mi si installa qui San Giorno questa cosa, vediamo un po' se riesco da con un'altra applicazione. Mannaggia tutti i diavoli dell'universo. Allora, facciamo una nota. Allora, pesce. Ok, adesso allargo, allargo il carattere. Ci vedete? Ci siete abbastanza, no? Allora, pesce in greco, fate un atto di fede, si dice ictius. Ok, ictius è un acronimo. Che significa? Se tu lo scrivi in verticale, così, sono le iniziali di queste parole. Jesus, lo scrivo in greco, è Christos. Te-u. U. Ios so terra, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Gesù Christos, Teu significa di Dio, Huios, figlio, Salvatore. Ecco perché nelle catacombe si trova il pesciolino, perché i cristiani, per definirsi come cristiani, segnavano il pesciolino, perché da tempo immemorabile chi è il pesce? Il pesce è figura di Cristo. Allora, perché due pesci? Ecco perché la messa di San Leone. Quante sono le nature di Gesù? Due. Due pesci. Il figlio di Dio fatto uomo con la sua natura umana e divina sta per essere consegnato ad essere crocifisso, quindi la moltiplicazione dei pani è un'anticipazione della messa. E questo pane si moltiplicherà a livello indefinito e sarà sparso su ogni altare di ogni luogo e di ogni tempo per essere immolato e per essere offerto come nutrimento spirituale di tutti. Da dove lo capiamo? Dice, questa è una forzatura. Quando gli portano il pane, e c'era molta erba in quel luogo, eccetera eccetera, anche qui l'erba, qualcuno ci vede, che vede l'erba è un richiamo al giardino dell'Eden, cioè nel giardino, e Adamo prima del peccato mangiava soltanto erba e verdura, ecco, anche i vegani, molte queste cose qui, no? Allora dice, qualcuno dice, l'Eucaristia ti riporta per quanto possibile ad una condizione paradisiaca, idilliaca, perché ti reimmette in quella comunione perduta con il Signore, no? Possibile, insomma, sai, nel Vangelo c'è veramente di tutto e di più, no? Allora, Gesù prese i pani, vedete, come chiamiamo la messa noi Eucaristia? No? Qui purtroppo non leggete i caratteri greci, ma Kai Eucaristesas, e dopo aver reso grazie, li diede loro, li distribuì, diedochen, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse. Quindi c'è proprio un richiamo esplicito anche a quelle che sarebbero diventate poi nel rito dell'Eucaristia le parole della consacrazione. Quando furono saziati, gli fa raccogliere i pezzi, ne avanzano, li raccolsero 12 canestri. Perché 12? La separazione tra la chiesa e la sinagoga. Quante sono le tribù di Israele? 12. Allora, il popolo dell'antica alleanza avanza questo pane, perché? Perché loro ancora non lo vogliono, quindi quel pane è pronto per quando i nostri cari fratelli ebrei, tanto questo succederà presto o tardi, non si devono offendere, non si devono dire offesi, perché ma questo succederà, perché è scritto, questa è una profezia biblica, quindi se è una profezia biblica è solo questione di tempo, sicuramente questo avverrà, saranno gli ultimi, come San Paolo dice, ma avverrà, che queste benedette 12 sporte che ancora li stanno aspettando se le mangeranno anche loro, gli ebrei si verranno con noi a fare l'Eucaristia. E se quel giorno, io per peccato che probabilmente saremo morti, perché se sono gli ultimi non sarà una cosa a breve, ma sarà molto molto bello, insomma, perché insomma gli ebrei per quanto riguarda l'Antico Testamento hanno una cultura, anche un amore, insomma, che ci danno i punti a noi, purtroppo a noi cattolici, quindi per certi aspetti sono da ammirare. Ecco qua il... Allora, questo è davvero il profeta, l'abbiamo già detto. Ale, viva! Allora, Gesù scappa, via, d'accordo? Perché, anche qui, no? E noi vorremmo che il nostro Signore Gesù Cristo, questa è un'interpretazione esistenziale, no? Ci risolve i problemi sul pianeta Terra. Quindi noi vogliamo, vorremmo che qui le cose ritornano, ma non funziona così. Gesù non ci risolverà i problemi della vita terra, ci darà la forza per affrontarli, d'accordo? Cominciandoci a proiettare verso la vita del cielo. E quindi lui ha sempre rifiutato, come dire, una lettura appiattita, come dire, piccola del suo ministero. Non sono venuto a risolvere i problemi della vita terrena, perché tanto i problemi della vita terrena non risolveranno il problema di lui, che tu comunque il giorno muori. Ecco, riusciamo a risolvere problemi ben più profondi, ben più importanti. La tempesta serata, lui sta sulla montagna, i discepoli scendono al mare, salgono in barca, era notte, Gesù non li ha raggiunti, e succede il finimondo, il mare si agita e soffia il vento, e Gesù cammina sulle acque. La prima reazione, diciamo in italiano, la fobia, no? E fobethesan in greco, fobeo mai significa to fear, avere proprio paura, una paura proprio forte, no? E Gesù li rasserena. Sono io, attenzione, qui anche la traduzione nuova, vedete, questa è la traduzione nuova, no? Io poi, ma veleno, allora in greco c'è scritto ego eimi, a civicchia. Non c'è scritto sono io, c'è scritto io sono. Mo, se lo vado a prendere, ci metto niente, Esodo 3,16, quando Dio rivela il suo nome a Mosè, è io sono colui che sono. Io, che dice, dirai, io sono, mi ha mandato a voi. Dato che ci stiamo, tanto qua, ricordiamoci, 6,20, lo prendo subito, tanto mi ricordo tutta a memoria, citazioni, quindi... so dove andare a cercare. Qui abbiamo pure l'ebraico, No, eccoci. Mi risponderanno, qual è il tuo nome? Io cosa risponderò loro? Vedete? Spero che lo riconosciate. Ego eimi. Ego eimi. Io sono. In ebraico è Echie. E direi agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. D'accordo? On, colui che è, mi ha mandato a voi, è la stessa cosa. Quindi quando Gesù dice a loro coraggio sono io, non temete, non è sta dicendo so io, dice coraggio io sono, cioè io so Dio, state tranquilli. E attenzione, quindi che significa? Significa che anche quando le acque della nostra vita si agitano, sempre, quasi sempre, non dobbiamo avere nessuna paura, perché Dio è con noi. Attenzione però, in che senso è con noi? Tra la moltiplicazione dei pani e il discorso sul pane vivo. Ecco perché la gente queste cose dice, ma io padre prego, ma però a messa non ce vado. Dico, Gesù poi dirà, se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, fa un discorso proprio, non avrete in voi la vita. Non c'è niente da fare, cioè non è un optional. Quindi guardate che questo è un capolavoro, sto capito qui, cioè, capite il messaggio che ci sta? È stupendo, è bellissimo, cioè moltiplicazione dei pani, Gesù cammina sulle acque, sono io, non preoccupare, tranquilli. Lo prendono sulla barca e la barca rapidamente tocca la riva, c'è nessun problema, tocca la riva e il giorno dopo ritorna la folla, ritorna la carica, le barche a destra e a sinistra, e Gesù a un certo punto dice: ah, sei passato all'altra riga, che hai fatto? Perché se no fatti tutto quanto il giro. Questo è bellissimo, anche andare sul lago di Liberiade, la faccio morire di nostalgia, insomma, no? Ah, il lago di Liberiade, attraversare il lago di Liberiade col battello, con la barca di San Pietro, che era arrivata simile, insomma, com'era, e si vede, no? E sto grande lago, qui è una passeggiata dall'altra parte, quindi insomma, se sono fatti tutto quanto giro, è una bella passeggiata, insomma, se non c'hanno la barca, no? Cioè, quando sei venuto da quest'altra parte, e Gesù dice: attenzione, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto, vedete, il libro dei segni, questo si chiama, dei segni, cioè, vi ricordate il significato del termine segno? Non è tanto il miracolo, la moltiplicazione dei pani è un miracolo, d'accordo? Perché 5 pani d'orzo e 2 pesci non sfamano 5.000 persone, d'accordo? Quindi è quello che si chiama il miracolo. Gli esseri umani sono attaccati al rumore, voglio vedere cose, voglio vedere cose, ma il miracolo c'è stato, non devi capire il significato del miracolo, perché è ancora più importante che tu capisci il significato e che fai tu il significato di quello che è successo. E qui Gesù li rimprovera, dice: voi non avete capito il segno, ma voi siete abbuffati, avete mangiato quei pani e vi siete saziati, perché mentre con 200 denari d'orzo non ci mangiava manco un pane a testa, quelli si sono abbuffati. Se sono avanzati 12 ceste, perché questo è anche quando fa le cose il nostro Signore, non è che si spilorcio, un pucciaro, un tipchio, il nostro Signore fa le cose in grande, se te fa una magnata, fa una bella magnata, non è che te va a tornare, che te sei mangiato un torso di marzo, cioè più fame di prima, no? Ecco, quindi dice: ma voi mi cercate perché avete mangiato i pane e vi siete saziati? E qui ecco Gesù, capite? Il parallelismo, no? Così ci trova anche nell'Eucaristia. È per l'anima ciò che è il pane, è per il corpo. Procuratevi non il cibo che perisce. Gesù non sta dicendo infischiatevi del mangiare, perché se non mangi mai, mori. D'accordo? Sta dicendo non pensare solo ad avere la panza piena, cioè l'unico problema della vita non è la panza piena. D'accordo? Voi sapete che anche la Chiesa predica e fa la carità, perché se uno ha fame, hai pure da che cosa da mangiare. Ma la Chiesa non ha mai fatto solo questo, cioè, tanto mangia, ok, ha mangiato, ecco, ricordate che però c'è in anima, l'anima mangia pure issa, pure se non te va, pure se non te muori di fame, se l'anima non mangia, ma l'anima deve mangiare prima e più del corpo, per cui una persona che vive senza l'Eucaristia fa morire di fame l'anima, l'anima muore proprio, d'accordo? Né più né meno di quello che avresti di fame se lo mangiassi mai. Lo sapete che il cosiddetto precetto pasquale nacque perché nel corso della storia, insomma, tutte le cose che sono successe, i fedeli a comune non se la facevano più. Per tante situazioni che adesso non è il caso di approfondire in questa sede, no? Allora la Chiesa ha detto, dice: ragazzi, io capisco, insomma, ma almeno a Pasqua la comunione te la devi fare. Sapete che la legge della Chiesa impone, per legge di Chiesa, la comunione a Pasqua e il viatico, un punto di morte, perché se vai al di sotto di questo poni veramente a serio repentaglio, cioè non è l'ideale questo qui, perché l'ideale sarebbe la comunione settimanale per chi va messo la domenica, ma anche la comunione quotidiana per chi va messo tutti i giorni, d'accordo? Ma se scendi al di sotto di questa soglia, perché? Perché Gesù tra poco dirà: non è un optional questo qui, cioè io non ho fatto sta cosa, cioè Dio non fa cose inutili, d'accordo? Non fa cose così da tanto, dice: vabbè, fammi una cosa caruccia, va, non mi invento l'Eucaristia così, se per via voglio ogni tanto volete dire: oh, Dio mi ha nutrito, mo, ma so che ti ha tolto sta soddisfazione. Non è così. Perché la relazione tra l'Eucaristia e il cibo che perisce, cioè procuratevi non il cibo che non dura, datevi da fare, no? Ergazeste in greco, ergazoma significa lavorare, trafficare, affannarsi, industriarsi, no? Il cibo che perisce, ma per quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre ha messo bellissimo il suo sigillo, sfraghiseno teofos, tatuato, quindi marchiato con il segno del Padre per essere il nostro Salvatore. Bellissima questa immagine. Gli dissero loro: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? L'opera di Dio è credere in colui che egli ha mandato. Vi ricordate? Cioè, nel Vangelo di San Giovanni la cosa principale, l'atto di virtù per antonomasia, è credere in Gesù. Il peccato unico, secondo San Giovanni, dice: quanti peccati esistono? Uno. Da cui tirano altri, tutti gli altri dipendono. Che se uno ci pensa è così: non credere in nostro Signore Gesù Cristo. Allora, perché? Perché per passare dalla materialità di un atto al suo significato deve averci la fede, deve averci. Al termine della consacrazione il sacerdote ripete Mysterium Fidei, perché quello che tu vedi è diverso da quello che è. Cioè, la vita di un cristiano, noi stiamo continuamente, per esempio, noi non ci pensiamo, non ci penso manco io, noi qua dentro vediamo un numero X di persone, ma ogni volta che noi vediamo un numero di persone, minimo devi moltiplicare per due, perché tante sono le persone, almeno resta un angelo a testa. I preti si dice che ce n'hanno di più, se qualcuno ha qualche missione speciale ce n'ha ancora di più, quindi minimo il doppio, se non pure qualcuno di più. Se uno sta vicino a un vescovo, a un papa oppure a un santo, lì c'è puzza, capito, che ci sta un aumento esponenziale. Qualcuno l'ha mai visto gli angeli? Ma ci stanno, ma non ci stanno. Quando celebriamo la messa, il mese di novembre, i santi hanno avuto rivelazioni, sotto l'altare ci stanno andando nel purgatorio, sempre, sempre qualcuno ci sta. Ci stanno i dipinti, no? Che queste stanno in mezzo al fuoco, le mani verso l'alto, di dammi una goccia, perché è un dono enorme che il Signore fa, anche nel purgatorio, di partecipare a qualche messa. Noi ce ne importa niente, per cui quelli lo supplicano, fammi andare a qualche messa. Perché la messa per loro è un refrigerio, ma che vediamo? Non si vede niente. E allora dice, allora, vedete, il paradosso, l'ha appena fatto il segno. Quale segno tu fai perché vediamo e possiamo chiederti quale opera compi? Dice, i nostri padri, allora, un bel segno sarebbe la manna dal cielo. E allora Gesù si raccorda con la moltiplicazione dei pani e dice, allora, mo ve lo spiego quello che ho fatto l'altro giorno, perché non avete capito. Ecco perché adesso riprende il discorso. Dice, numero uno, non è stato Mosè a darvi il pane dal cielo, ma è stato il Padre. E vedete il segno, il tipo e l'antitipo, si dice tecnicamente, cioè l'Eucaristia. Quello era semplicemente un segno, ma il pane, quello vero, ton bellissimo, aletinon, è quello che il Padre vi darà. E qual è? Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo, so io. Allora gli dissero, che bello, dacci sempre questo pane. Quindi, reazione emotiva, dice, non ci siamo capiti, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede a me non avrà più sete. Torniamo al discorso della montagna, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. È la stessa cosa. Cioè, dire chi viene a me non avrà più fame e chi crede a me non avrà più sete è la stessa e identica cosa. D'accordo? La giustizia nell'Antico Testamento significa fare quello che Dio vuole, cioè essere santo. Chi si unisce a Gesù, che è il santo, quindi chi fa bene la comunione, sicuramente diventa santo e quindi appaga i bisogni più profondi che si porta dentro, che sono quelli dell'anima e non quelli del corpo. Se vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete, è il problema sempre della fede, no? E poi Gesù introduce un mistero. Il mistero è questo qui, che il Padre dà delle grazie, dei doni. E tutto ciò che il Padre consegna al Figlio, Gesù lo accoglie. E la volontà del Padre, più avanti ancora, dice, sono venuto per fare la sua volontà. E qual è la volontà sua? Che io non perda nulla di tutto quello che egli mi consegna. Ma lo risuscitiamo nell'ultimo giorno. Qui però già rimanda alla conclusione. Ma uno di voi è un diavolo. Quindi anche sul discorso del pane del cielo, che poi alla fine si produce una spaccatura, molti se ne vanno, viene anche introdotto il discorso molto serio del contrasto tra il disegno salvifico di Dio, che è universale, che vorrebbe abbracciare tutti, e la libertà dell'uomo, che o si scandalizza o si ritrae o tradisce o si perverte o si allontana. Quindi c'è questo evidentissimo contrasto. Quindi noi non dobbiamo mai crogiolarci nel fatto che Dio, certamente Dio ci vuole tutti salvi, ci vorrebbe tutti in paradiso e ci vorrebbe tutti felici e contenti, ma questo non può mai diventare un pensiero crogiolante. Allora no, perché se tu non entri in questa dinamica, non ci corrispondi, non la rispondi, non la ricambi, non la accogli, questa cosa non si compirà, d'accordo? Perché non esistono automatismi da burattinare. Intervengono i giudei che mormorano perché Gesù sono il paradiso sul cielo e cominciano le solite cose, queste si vedono anche nei sinottici. Chi sei tu, pane di Gesù dal cielo? Boh. Vedete anche l'umano pensare, l'umano buonsenso. Veramente a me mi sembra che tu sei un uomo, non sei pane, figlio di Giuseppe, conosciamo tuo padre e tua madre, sceso dal cielo. Cioè, a queste cose noi dobbiamo pure pensarci un po', perché noi dovremmo pensare, mica Gesù andava in giro a tutti quanti che l'arcangelo Gabriele aveva fatto l'annunciazione, era stato concepito, che San Giuseppe era solo il padre putativo, non c'è. Sappiamo per certo che Gesù non l'ha fatto. San Leone Magno è stato uno dei grandi teorizzatori di questa cosa, perché durante la redenzione è stata una trappola ordita al diavolo. Il diavolo non doveva sapere che lui era il figlio di Dio fatto uomo, perché altrimenti non avrebbe permesso il compimento dell'opera della redenzione, perché non è stupido il diavolo. E quindi l'ha ingannato. Per ingannarlo bene, lui faceva credere tranquillamente che era figlio di Giuseppe e di Maria, capito? Attenzione, anche qua dice le bugie Gesù, non diceva assolutamente niente. Era il padre Giuseppe? Certo che è mio padre. È padre putativo, ma non c'è bisogno che aggiungo mutativo. È mio padre? È mio padre? Sì, non è una bugia, capite? Quindi non l'aveva detto in giro, quindi noi dovremmo pensare, tu sei padre vivo, ma chi si cibo? Poi Gesù incalza, no? Cioè, vedete, anziché dire, cioè, non mormorate tra di voi. E qui dice, attenzione, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre mio. Quindi attenzione a non fare discorsi umani, mettetevi in condizione di mettervi in ascolto di qualcos'altro. Cioè non mi ti mettere davanti con una logica ed una mentalità appiattita sull'umano, perché altrimenti starei completamente fuori. Chiunque ha udito in padre e ha imparato da lui viene a me, altrimenti non capirà un H di quello che io sono e di quello che io faccio. Io sono il pane della vita, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, sono morti, quindi qui ancora il pane di Dio discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Se uno mangia di questo pane che rimane eterno, il pane che io darò è la mia carne. Attenzione qui il termine greco, sarx, in inglese è flesh, proprio carne. Sapete che nei miracoli eucaristici, cioè, l'ostia è trasformata in carne viva. Quasi sempre, quando non ho potuto analizzare, era carne appartenente al muscolo cardiaco. Cioè, la sostanza è carne. Certo, poi San Tommaso avrebbe spiegato che attraverso la sostanza, perché non è tanto il mangiare la carne, perdonatemi il paragone, come non mangiamo la carne quando mangiamo la carne, ma attraverso la sostanza viva del corpo è presente tutta la persona, d'accordo? Quindi io mi nutro di Gesù, non semplicemente della sua carne. Però il linguaggio è molto realistico, proprio per introdurre quello che sarebbe poi stato tutta l'altra dottrina della Chiesa, la sua presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Ed è pane vivo e carne. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. E questi dicono, prima ha detto che il pane di Gesù dal cielo, secondo noi sarebbe il figlio di San Giuseppe. Ma Cristo ha detto che ci dà la carne da mangiare. Ma qui stiamo uscendo di testa. Voi sapete che i romani, dispregiativamente, la sapete, no? chiamavano i cristiani cannibali, perché dice questi si riuniscono, fanno un banchetto strano e dicono che mangiano le carni di un certo Cristo. Cioè, chi lo sa che fanno questi? Capite? Se questi ci vanno a mangiare la carne. Ma allora, attenzione, cioè, capite quando Gesù parla della fede? Pensate anche a certi poveri fratellini e sorelline che esistono anche oggi, che si accostano alla fede in maniera molto molto grezza, no? Molto molto rozza, proprio in senso posta cosa qui, eh? Cioè, capito? Cioè, ci vuole altro, ecco. E poi Gesù ha questa affermazione veramente forte: se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, la carne del figlio dell'uomo, non avrete in voi la vita. Non la vita biologica, perché la vita biologica non viene dall'Eucaristia, ma la vita dell'anima. Ancora, l'Eucaristia è pegno, il corpo e il sangue di Cristo metto in questo calice. Io dico, quando faccio l'immissione, tanti mi dicono: che dici? Lo dico io, il corpo e il sangue di Cristo in questo calice siano per noi pegno di vita eterna, perché l'Eucaristia è l'anticipo: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna già da adesso, e nell'ultimo giorno io lo risusciterò in forza dell'Eucaristia di cui si è nutrito per la vita eterna. Okay. La mia carne vero cibo, il mio sangue vera bevanda. Lo sapete anche l'importanza, una piccola parentesi, mo figuriamoci col coronavirus, prima che si potrei fare. Vi ricordate perché 2 o 3 anni quando sono stato qui abbiamo avuto la comunione sotto le due specie, no? Non è che fai più comunione, ma è un bel segno, almeno a me personalmente. Io pensavo di fare una cosa, insomma, non ho fatto più perché già a quei tempi, insomma, qualcuno c'era delle difficoltà, perché se fai comunione sotto le due specie non si può prendere la comunione in mano, qualcuno preferisce la comunione in mano. Aveva chiesto, dice, fallo ogni tanto. Dico, vabbè, mo figuriamoci adesso, insomma, che adesso chi lo sa, insomma, quando si potrà. Era mia intenzione, insomma, farlo ogni tanto. Vi ricordate poi quando eravamo in due, no? I sabati e le domeniche, per mantenerlo in modo tale che si poteva andare incontro a tutte quante le esigenze. Ma adesso, ragazzi, cominciamo qualche novena, che non lo so, insomma, quando andrà avanti sta storia. Quindi non credo che sia una cosa riproponibile a breve, no? Ancora, come il Padre che ha la vita ha mandato di me e io per il Padre, colui che mangia di me vivrà per me. Un'altra cosa bellissima. Quindi non hai la vita e tu non puoi vivere di Gesù, per Gesù, se non mangi di lui. Il grande motto la cosa che lui diceva ai santi, no? Io voglio che voi viviate di me e per me. Quindi dell'Eucaristia, perché la vostra vita diventi a sua volta Eucaristia, vita spesa. Allora, via. Queste cose disse Gesù insegnando una sinagoga. Andiamo verso la conclusione. I discepoli dicono: oggi abbiamo proprio esagerato, tu si può essere offensivi, ma via. Dice: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima? È lo spirito che dà la vita, vedete, l'essere, quindi non puoi essere, tu non si può accostare a Gesù, come dire, con la grezzaggine dell'essere terra-terra, perché altrimenti sei completamente fuori. Quindi bisogna entrare in una dimensione superiore, no? Dice: vi sono alcuni tra voi che non credono. Se non c'è un po' di santa fede, questi sono tutti altri discorsi follia, astrusaggini, d'accordo? Come pensavano i pagani. Per questo io ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Cioè, il Padre da un lato li manda tutti quanti da lui, ma dall'altro, come dire, gli consente di capire quello che lui dice a coloro che si dispongono, a coloro che si aprono, a coloro che, si dice nella Chiesa, hanno delle buone disposizioni, non mettono delle barriere a priori, insomma, no? E Gesù perde una montagna di discepoli. Guardate che strana coincidenza. Versetto è 6.66, cioè 666, il versetto dove dice: da allora molti discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Sono nella Vulgata 6.67, forse San Girolamo se ne è accorto, insomma, dice: cambiamo versetto, insomma, no? Vabbè, questa è una facezia, insomma. E Gesù dice: forse anche voi volete andarvene, questo fa la frase famosa, diciamo, che passo è finito, no? Due parole di vita eterna. Qui San Pietro, vedete, nel Vangelo di San Giovanni, San Pietro non riconosce Gesù come il Cristo, il figlio del Dio vivente, questo è Matteo, no? Però parla lui. Quindi, dinanzi allo smarrimento del mondo, il Papa dice: no, andiamo da lui, è lui il punto di riferimento, solo lui ha parole di vita eterna. Quindi è un modo indiretto con cui San Giovanni sta glorificando, diciamo così, sta onorando, più glorificando la figura di Pietro e il suo compito di portare tutti a Cristo, no? E poi Gesù esprime il suo rammarico della drammatica, insomma, possibilità per l'uomo. Dice: sì, Giuda era stato scelto, eppure, qui significa che non basta essere battezzati, non basta essere preti, non basta essere vescovi, non basta essere frati, non basta essere cardinali, e penso che non basti nemmeno essere papi, con tutto rispetto per tutti quanti i papi che ci sono stati, perché la nostra libertà rimane sempre integra. Spetta a noi decidere di essere santi battezzati, santi frati, sante suore, santi preti, santi frati, eccetera. Questo come accadrà se viviamo dell'Eucaristia per poter vivere per Gesù. Ecco, questo è un po' il messaggio di oggi. Fermiamoci perché abbiamo esaurito il tempo massimo, però se il sesto periodo con Giovanni San Giovanni è tanta roba, ragazzi. Spero di avervi aiutato un po'. Sei del 2002? Sai che puoi spendere il tuo bonus cultura per abbonarti all'edizione digitale del Corriere della Sera? Registrati a 18app, usa il tuo buono e resta informato per un anno con il Corriere. Hai tempo fino al 28 febbraio 2022. Vai su corriere.it/abbonamenti. Mi stavo chiedendo, quanto era veloce quel servizio? 98 km all'ora. Che colpo, quanto è andato lontano? 229 metri. Quanto hai dormito? 7 ore e 54. Ultima domanda, stai allenando corpo e mente con l'app Mindfulness? Esattamente. Tutti abbiamo delle domande e il nuovo Apple Watch Series 7 ha le risposte sul display più grande ed evoluto di sempre. Il futuro del benessere è qui, al tuo polso. Soggetto a disponibilità, richiede iPhone 6S successivo. App disponibile sull'App Store, iscrizione richiesta.